trincea. Tipo di fortificazione militare difensiva costituita nella sua forma più semplice da un fosso lineare scavato nel terreno per ospitare al suo interno le truppe, che in questo modo si trovano protette dal tiro delle armi nemiche. Wikipedia. Che figata, eh? Rende tutto così chiaro, così semplice, così lineare. Queste parole antiche, rassicuranti. Fosso. Terreno, protezione. Sembra quasi una roba bio, la trincea, una roba di quelle che si comprano da natura, sì, che probabilmente costa un botto, infatti. Chissà che cosa ne pensano Jim e Otto della trincea e di Wikipedia. E voi direte, ma chi sono Jim e Otto? Sono due soldati che nel 1914 stanno in uno di questi fossi lineari scavati nel terreno, uno di fronte all'altro, non il loro terreno, non il loro paese, no, stanno nelle Fiandre. Allora, le Fiandre è un posto che al confronto Busto Arsizio sembra Disneyland, con tutto il rispetto, per Disneyland, ovviamente, non per Busto Arsizio, perché insomma, non sono lì in vacanza, no. Non potrebbero neanche permettersela. Jim è un 21enne apprendista ciabattino di Glasgow che l'unica vacanza che ha fatto l'ha fatta quando aveva 10 anni con la famiglia e è andato all'isola di Skye. Otto ha 23 anni, è il figlio di un edicolante di Regensburg, Ratisbona per noi italiani. Ma non vuole ereditare l'edicola del padre, no, a lui piace cantare, prende lezioni di canto, infatti, di nascosto dal padre. Ha tanti sogni in testa e pochi soldi in tasca. Entrambi sono fidanzati e quando torneranno a casa vorranno sposarsi. Jim per fare tanti bei bambini, Otto per andarsene finalmente fuori dalle scatole, andarsene via e poter raggiungere i suoi sogni. Sono stati mandati lì, in questa trincea, nelle Fiandre, dai loro governi, diremmo oggi in pensione completa. Vitto e alloggio gratis. Beh, oddio, vitto. Zuppa di cavolo cotto, riso schifoso, pane raffermo, brodo freddo. Qua per l'alloggio, appunto, la trincea. Fango. Fango continuo perché quel cazzo di terreno argilloso non ce la fa a filtrare l'acqua, per cui quando piove, e nelle Fiandre piove abbastanza spesso, bisogna dire, quando piove si formano dei laghi di melma profondi fino a 1,5 metri, sembrano delle sabbie mobili. E lì bisogna vivere, ma bisogna anche dormire nella trincea. E si dorme come? Si dorme o stesi sopra specie di assi da lavare, di legno, oppure in piedi, addossati al muro della trincea. Dormire vestiti naturalmente, perché non è che ci sono gli armadietti come le palestre dove si può mettere le giubbe e i pantaloni, e in quel fango di togliersi le scarpe manco a parlarne. Per cui si sta lì in piedi, vestiti, con l'umidità che penetra dentro le ossa, le gambe che si gonfiano, si riempiono di piaghe, le calze che si attaccano ai piedi, tanto che quando almeno una volta ogni tanto si prova a toglierle, vengono via anche brandelli di pelle. Ma questo è il meno. Sembra incredibile, ma questo è il meno. Perché ci sono i pidocchi. I pidocchi. Milioni di pidocchi. Si attaccano dappertutto, alle uniformi, nei capelli, le barbe, sulle braccia. E d'altronde non ci si lava, per cui i pidocchi stanno da Dio, come un pisello nel suo baccello, nel loro ambiente naturale. Sono tantissimi sti pidocchi. I soldati provano ad ucciderli con le unghie del pollice. E poi, tra l'altro, ogni tanto le prendono delle manciate, le mettono nelle bacinelle, li fanno sciogliere, creando un grasso che si spalmano sulla pelle per tenere lontani i pidocchi. Grasso di pidocchi morti per tenere lontani i pidocchi vivi. Ma non ce la si fa perché sono troppi quei bastardi. Vanno via in un caso solo. Se si muore. Non è granché igienico, in effetti, ma soprattutto per il fatto che se si muore si è preda dei topi. Topi giganteschi che nuotano nel fango e nella melma come delle medaglie d'oro olimpiche, praticamente sembrano la Pellegrini. entrano nelle trincee come mostri famelici, mordicchiano i soldati vivi, annusano le uniformi, fanno a brandelli i cadaveri, agitando le loro code carnose e mettendo squittii che sembrano dei latrati. Pidocchi, topi, freddo, pioggia, pozzanghere, fango, odore di sudore rappreso, di corpi in decomposizione, di sangue marcio e l'artiglieria. Quei maledetti colpi di mortaio che continuano ininterrottamente giorno e notte, ma soprattutto all'alba, e non sai mai se sono il preludio di un attacco oppure qualche gesto svogliato e automatico. Sembrano dei tuoni, come quei tuoni che Jim sentiva da bambino all'isola di Skye, quando a Dunvegan, vicino al castello di Dunvegan, vedeva le foche che si inabissavano. Oppure che Otto ascoltava quando passeggiava mano nella mano con la sua fidanzata sullo Steinernebrücke, il ponte che divide in due Regensburg sul Danubio. Sembrano quei suoni là, i tuoni, rassicuranti anche essi. E dopo i tuoni, la pioggia. A Skye e a Regensburg, gocce d'acqua fittissime da cui si riesce a stare lontani solamente entrando nei pub o mettendosi sotto i portici. Ma qui no. Qui sono schegge di granata, pietre che volano a velocità impazzita, pezzi enormi di fango che saltano per aria. E non c'è un posto in cui andare, perché si è nella trincea, no? È il posto più sicuro del mondo, lo dice anche Wikipedia. E poi se si prova a scappare, in ogni caso si è preda della corte marziale che ha un solo obiettivo, fucilare i disertori, e questo obiettivo lo mette in atto in modo gelido e senza discriminazioni. E allora pidocchi, topi, freddo, pioggia, pozzanghere, fango, odore di sudore rappreso, di corpi in decomposizione, di sangue marcio, i tuoni dell'artiglieria, e pidocchi, e topi, e freddo, e pioggia, e pozzanghere, e fango, odore di sudore rappreso, di corpi in decomposizione, di sangue marcio, e i tuoni dell'artiglieria, e i tuoni dell'artiglieria, e i tuoni dell'artiglieria, e i tuoni dell'artiglieria, e basta! Ma che ci faccio? Io, qui. Francesco Ferdinando è il figlio di Carlo Ludovico d'Asburgo. Lo zio è l'imperatore di Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe. Ma nel 1914 è lui, il 51enne Francesco Ferdinando, ad essere suo erede, non il cugino Rodolfo, il figlio di Francesco Giuseppe. E perché? Ma perché il cugino Rodolfo si è suicidato nel 1889? Tra l'altro, gli è morto a Francesco Ferdinando pure il padre, Carlo Ludovico, nel 1896, per cui ormai sono rimasti lui e lo zio. Punto. Francesco Ferdinando è il risultato del plurisecolare incrocio di 112 famiglie aristocratiche. Questo lo porta ad avere più di 2000 antenati illustri, fra cui il Re Sole, Carlo V, Maria Stuarda, Federico II e Carlo Magno. Vedi Francesco Ferdinando? Tutto ciò non impedisce a un 19enne fervente nazionalista serbo, Gavrilo Princip, di ucciderlo sul ponte di Sarajevo con una semplice revolverata il 28 giugno 1914. Bam! Ciao ciao, Francesco Ferdinando! L'omicidio non desta nessuna impressione. A Vienna di Francesco Ferdinando non gliene frega un cazzo a nessuno. Ma i politici e i militari austriaci pensano che sia una grande occasione per sbarazzarsi finalmente della Serbia e fare nuove conquiste. Ottengono l'appoggio incondizionato della Germania e un mese dopo, il 23 luglio, consegnano un ultimatum alla Serbia, che, a dire il vero, lo accetta quasi tutto, tranne l'ultimo punto, in cui c'è scritto che gli austriaci possono partecipare alle indagini sull'attentato all'arciduca in territorio serbo. E beh, dai ragazzi, questo è troppo, no? E nel frattempo tutta Europa viene a sapere dell'ultimatum, e non potrebbe essere altrimenti, visto che le grandi potenze sono collegate tra loro da patti più o meno segreti: da una parte Regno Unito, Francia, Russia e i loro amichetti Serbia e Montenegro, dall'altra Austria-Ungheria, Germania e Italia. Ma le grandi potenze sono legate tra loro anche da legami di sangue che vanno oltre queste alleanze. Per esempio, l'imperatore di Germania, Guglielmo II, è cugino per parte di madre sia del re d'Inghilterra Giorgio V che di Alessandra la zarina, la moglie dello zar Nicola II. Il ministro degli esteri inglese Edward Grey, dalla sua residenza di campagna, dove nonostante l'ultimatum è andato a passare il weekend, propone agli altri stati di trovarsi a Londra per discutere della questione. Gli italiani dicono subito di sì. Dove c'è da bere e mangiare a sbafo, noi ci siamo subito. I russi dicono: ma per quale motivo dobbiamo andare fino a Londra per parlare con gli austriaci? Sono qua a fianco, non c'è nessun problema. I francesi tentennano: I tedeschi non capiscono perché si debba parlare. Insomma, la conferenza a Londra non si fa. Edward Grey può tranquillamente andare a giocare a golf. Guglielmo II, in un empito di relativa saggezza, cerca di fermare le ostilità fra Austria e Serbia, provando a convincere gli austriaci a occupare Belgrado, ma solo per un po', senza fare una vera e propria dichiarazione di guerra. In fin dei conti Belgrado non è lontana, i serbi caperanno, dai, solo qualche mese e ve ne andate. Come? I guerrafondai austriaci non stanno assolutamente a ascoltare queste parole, per cui si affrettano ad avere l'ok alla guerra da parte di Francesco Giuseppe in persona, ingannato con false notizie di attacchi serbi a navi turistiche austriache sul Danubio. Il 28 luglio l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Il 29 luglio lo zar Nicola II mobilita 6 milioni di uomini al confine con l'impero austriaco. L'ambasciatore tedesco in Russia fa sommessamente notare allo zar che, insomma, il suo imperatore potrebbe non gradire questa mobilitazione perché, insomma, i confini fra la Russia e l'Austria-Ungheria non sono poi così lontani dai confini fra la Russia e la Germania. Lo zar scrive a Guglielmo II, allora, chiedendogli di fermare gli austriaci. L'imperatore gli risponde: tranqui, ci sto provando, non ti preoccupare. E in effetti ci prova, sì, perché il cancelliere tedesco, preoccupato dal fatto che Edward Grey, il ministro inglese, evidentemente tornato dopo il weekend passato a giocare a golf, ha dichiarato che se la Francia entrasse in guerra, chissà come mai, il Regno Unito non potrebbe stare a guardare. E allora ha scritto a Vienna, praticamente dicendo: vabbè dai, abbiamo capito, siete forti, siete bravi, siete belli, adesso basta, tornate indietro, dai. Peccato però che quando lo zar dice ai suoi di fermare la mobilitazione, i generali gli dicono: non è che possiamo mobilitare 6 milioni di uomini un giorno e smobilitarli il giorno dopo. Ci vuole tempo, no? Stiamo calmi. E quando lo stato maggiore tedesco vede che i russi non smobilitano, allora entra in mood, stato di pericolo di guerra, un pelo prima della mobilitazione. Quando lo zar vede che i tedeschi entrano in stato di pericolo di guerra, dà ordine ai suoi di non fermarsi, anzi di entrare in mood mobilitazione generale. E quando Guglielmo II vede che la mobilitazione russa continua, anzi aumenta, scrive un telegramma allo zar: ma porca miseria, eravamo d'accordo che io dovevo fermarmi. E tra l'altro manda un telegramma a Vienna dicendo agli austriaci: avanti così, fate un culo quadro ai serbi, noi siamo con voi. Sono due telegrammi opposti nel giro di un giorno solo, chissà come mai gli austriaci tengono fede solamente al secondo. Il 31 luglio la Germania consegna un ultimatum anche alla Russia. dice che hanno saputo della mobilitazione, certo, che loro non si sono ancora veramente mobilitati, sono entrati in una specie di pre-mobilitazione, ma ci stanno pensando, se i russi smettono subito loro si fermano. E lo zar risponde: ah, ma allora siete le coccio, eh? Ve l'ho detto, non possiamo smobilitare in 2 ore, è un attimo, no? E intanto parliamo, eh? Quello che i russi non sanno è che i tedeschi intanto inviano lo stesso ultimatum ai francesi, che se ne stanno tra l'altro belli tranquilli, chiedendo se resteranno neutrali in caso di mobilitazione russa. I francesi sono alleati dei russi, infatti, e i piani di guerra i tedeschi impongono prima di battersi con i francesi, annientarli facilmente e poi andare contro la Russia. I francesi cascano dal pelo. Ma dai, ma davvero i russi stanno mobilitando? Oh, non lo sapevamo mica. Oh no, assolutamente. Oh sì, cos'è che mi chiedi se rimaniamo neutrali? Oh boh, oui, oh boh, je ne sais pas, oui. Insomma, i tuoi non rispondono. I tedeschi hanno bisogno di certezze, un po' perché sono tedeschi, un po' perché insomma, bisogna, si parla di guerra, mica di spaghetti alla carbonara. Per cui, o sì o no. Per loro un forse equivale a no, non resteremo neutrali, per cui mobilitano anche sul fronte verso la Francia. Il re inglese a questo punto mobilita la marina dicendo: se i tedeschi attaccheranno navi francesi e entreranno nella Manica, daranno tutto il supporto necessario. Ma ai tedeschi della Manica non gliene frega assolutamente un tubo. Hanno un piano che prevede astutamente l'invasione di un paese neutrale per trattato internazionale, il Belgio, per prendere i francesi alle spalle. E quel piano, una volta dichiarata guerra alla Russia, deve essere messo in atto molto velocemente. Il 3 agosto la Germania dichiara guerra alla Francia e si prepara a invadere Belgio e Lussemburgo. Manca solo il Regno Unito. Siccome il Belgio, chissà come mai, rifiuta di dichiararsi neutrale, visto si è attaccato, prova a rispondere in ogni modo, il ministro Edward Grey, quello del golf e del weekend, forse si rende conto che la situazione sta un po' sfuggendo di mano e chiede ai tedeschi di tornare indietro. Ma i tedeschi fanno finta di niente, un po' come i francesi qualche giorno prima, e dicono: ah beh, non si può mica tornare indietro così, no? Dai, un attimo, no? Pensiamoci. E allora vanno avanti. Gli inglesi allora minacciano la guerra in nome dei trattati internazionali che stabiliscono la neutralità del Belgio, al che anche il cancelliere tedesco sbotta contro gli inglesi, dicendo in pratica: è tutta colpa vostra. Voi attaccate una nazione, magari non proprio amica, ma di sicuro non nemica, solo per uno stupido pezzo di carta, per un trattato. Vergogna! Il dado è tratto. Il 4 agosto il Regno Unito dichiara guerra alla Germania. Edward Grey dice che è inevitabile, perché altrimenti gli inglesi finirebbero per non essere più una grande potenza. E poi va a giocare a golf per il weekend. Sono passati 6 giorni. Soltanto 6 giorni. Dall'ultimatum alla Serbia, e l'Europa, tutta l'Europa, è in fiamme. Ognuno si gioca la sua carta. Gli austriaci in Serbia, i russi contro gli austriaci, gli ottomani contro i russi, e così via. Ma l'azzardo più grande è quello dei tedeschi, che giocano su 2 fronti. Devono vincere in più in fretta possibile su uno per poi andare nell'altro. Per questo corrono come dei pazzi nelle campagne del Belgio, destinazione Parigi. Il 7 agosto prendono Liegi. Il 20 agosto entrano a Bruxelles. Il 23 Charleroi e Namur. Il 2 settembre il governo francese prudenzialmente lascia Parigi e si stabilisce molto più a sud, a Bordeaux. Ma il 5 settembre i francesi contrattaccano e bloccano i tedeschi sulla Marna, e ci credo, era arrivato il corpo di spedizione inglese a dargli una mano. Il 14 settembre inglesi e francesi addirittura tentano un contrattacco, ma vengono fermati dai tedeschi sul fiume Aisne. Si combatte palmo a palmo a 40 km da Parigi. I tedeschi diventano matti, devono assolutamente trovare un modo per passare, perché intanto dall'altra parte i russi hanno incominciato a pungere. Si rendono conto i tedeschi che il fianco settentrionale del fronte è scoperto, per cui incominciano ad attaccare lì. Il 28 settembre a Albert, ma i francesi rintuzzano. Il 1 ottobre a Arras, ma anche qua i francesi li bloccano. Bisogna andare più a nord, bisogna andare ancora più a nord. L'8 ottobre alla Bassée, ma anche lì non ce la fanno i francesi, anzi i francesi contrattaccano, hanno capito il giochino, per cui vanno a nord anche loro e provano a Lille, ma anche lì non ci riescono. E allora provano a Ypres. Ypres viene presa dai tedeschi, rioccupata dagli inglesi il 14 ottobre, e poi basta perché il giovane re del Belgio Alberto I, apre la diga di Newport e tutta la regione fra Ypres e il mare del Nord diventa uno stagno schifoso in cui non si può più camminare. Tutti si fermano, migliaia di uomini contrapposti l'uno all'altro. E allora si incominciano a scavare le trincee. È la fine di ottobre del 1914. Sono passati soltanto 3 mesi dall'inizio della guerra. Sembrano pochi, a noi, che sappiamo come andrà a finire. Ma per i soldati al fronte sono già troppi. Sono andati in trincea, spinti da un'opinione pubblica convinta che la guerra sarebbe durata poche settimane. I giovani di mezza Europa sono saliti sul treno che li portava al fronte, spinti certo dalla loro incoscienza di ventenni, ma soprattutto dalle parole degli studiosi, dai proclami dei politici. L'imperatore tedesco offre un'immagine di imbarazzante soavità quando saluta i suoi soldati che stanno andando nelle trincee del Belgio dicendo loro: tornerete a casa prima che le foglie di questi alberi cadano sul terreno. I belgi si vedono attaccati in modo infame, per cui reagiscono ovviamente. I francesi devono vendicare l'assedio di Parigi nel 1871. Gli inglesi... No, per gli inglesi è diverso. Gli inglesi lo fanno per l'Europa. Devono salvare l'Europa dall'imperialismo prussiano. È una questione di principio, diamine. Per cui la stampa inglese rinfocola per la guerra, dicendo che si deve fare la guerra a favore dell'autodeterminazione dei popoli, della democrazia, della libertà individuale e dei diritti negati. È piuttosto singolare che tutte queste cose vengano scritte da chi detiene l'impero coloniale più vasto del mondo, costruito e gestito fregandosene bellamente dell'autodeterminazione dei popoli, delle libertà individuali, della democrazia, ma si sa, gli inglesi sono gente eccentrica. Per cui, nonostante a luglio a Londra ci sia una mobilitazione pazzesca con migliaia di persone a favore della pace, 200.000 ragazzi inglesi si imbarcano a Dover, volontari. Un'intera generazione che verrà annientata dall'artiglieria tedesca corre fischiettando incontro alla morte in nome dell'onore. E non perché ce l'abbiano con i tedeschi, eh? Attenzione, no. I tedeschi, ma ce ne sono tantissimi in Inghilterra di tedeschi. Sono perfettamente integrati. Fanno i tassisti, i baristi, i commercianti, i professori. Ci si parla mentre gli si incontra per strada, si va a bere una birra al pub o il tè delle 5. Sono i rappresentanti di una nazione gemella. Addirittura all'inizio d'agosto ancora i giornali inglesi reclamizzano crociere ad Amburgo andate e ritorno a prezzi popolari e i tamburini della stagione estiva di Dresda. Non è un odio contro i tedeschi che fa andare al macello migliaia e migliaia di inglesi, ma un odio per quello che sta sotto l'idea dello Stato tedesco. Per i valori, per l'idea stessa dello Stato tedesco. E quando si combatte contro un'idea, allora forse è il caso di distruggerla subito, molto velocemente. Perché se non ce la si fa e ci si ferma, sono dolori. Ma non perché si viene contrattaccati e si perde perché vincono gli altri, no. Perché si incomincia a pensare. E in certe situazioni pensare è molto pericoloso. Siamo al 24 dicembre del 1914. Dopo giorni e giorni, sulle trincee intorno a Ploegsteert, un paesino a pochi chilometri a sud di Ypres, in Belgio, ha smesso di piovere, finalmente. Il cielo lattiginoso fa filtrare poca luce, che illumina la terra di nessuno, 100 metri tra le due trincee contrapposte. Terreno incolto, pieno di enormi buche create dalle granate riempite di acqua piovana, qualche albero insecchito qua e là. Cumuli di cadaveri fradici che sono preda di topi e di uccelli. il termometro va sotto zero e una striscia di ghiaccio si forma sul fango. Nelle trincee si batte i denti, però insomma, visto che il fango si rapprende, cioè, almeno si riesce a camminare, ecco, almeno quantomeno a stare in piedi. È la notte di Natale. I soldati ricevono dalla madre patria, che in questo modo cerca di lavarsi la coscienza in maniera un po' ipocrita, doni o razioni supplementari. Jim riceve la Princess Mary's Gift Box. È una scatoletta di metallo con dentro sigarette, tabacco, accendino, una bella foto della principessa Mary e un biglietto scritto e firmato dal re in persona. Che Dio vi protegga e vi riporti a casa sani e salvi. Dall'altra parte, Otto riceve i cosiddetti doni d'amore. Sono delle strane natalizie comprate o create apposta dalle sciure dell'alta società bavarese. Molto utili, nel freddo delle Fiandre. Parliamo di cappelli di lana, di guanti, di calze, di pomate contro i pidocchi. Ma molto più benvenute, anche in questo caso, sigarette, tabacco e accendino. E infatti il principe ereditario Enrico, che ha capito l'antifona, manda al fronte migliaia di pipe con stampato sul bordo il suo bel faccione. E una bella lettera che più o meno finisce con queste parole: questo è un piccolo dono in memoria dei tanti Natali passati insieme nella nostra Germania. Non si sa come i soldati prendano questi doni. Probabilmente se li mettono in tasca mormorando un vaffanculo, perché quando si rischia la pelle si diventa molto più sinceri. Le temperature vanno sotto zero, ghiaccia tutto, è notte. Jim è di guardia, è molto attento a non sporgersi troppo per non farsi impallinare, ma deve continuamente muovere le gambe per non crepare di freddo. Ha ricevuto degli ordini molto precisi. Deve scrutare attentamente quello che accade di fronte a lui, riferire ai superiori qualsiasi variazione significativa e sparare a vista, se è il caso, ma senza mai sprecare proiettili inutilmente. Di notte fare la guardia è una noia mortale. Non so se qualche maschietto qua presente ha fatto il militare, se lo ricorda. Non succede un cazzo la notte. E allora cosa fai? Pensi. Fai andare il cervello. E Jim cosa pensa? Pensa a Glasgow, a casa sua. In quel momento sicuramente i suoi genitori, i suoi parenti sono intorno a un fuoco, si stanno scambiando i regali, mentre lui dov'è? È lì, in quel posto assurdo, a fare la guardia al nulla, con davanti 100 metri di buio e poi, boh, la trincea, manco la vede. Pensieri pesanti, forse, per cui talmente pesanti che le fanno abbassare la testa. Ma con la coda dell'occhio percepisce un movimento dall'altra parte della trincea, per cui alza lo sguardo al volo e quello che vede lo lascia esterrefatto. Luci, decine di piccole luci illuminano quasi a giorno la trincea. Ci mette un po' Jim a capire che in realtà quelle luci sono dei piccoli alberi di Natale. Comandante! Comandante, il nemico è in azione! Rumore di stivali infangati nella trincea scozzese. Il comandante, il maggiore Mackenzie Hood, arriva, prende il binocolo e rimane a bocca aperta. Soldati del 134esimo reggimento sassone, con baffi teutonici e sorrisi d'ordinanza, si scambiano vigorose strette di mano alla luce di piccoli alberi di Natale. Li vede talmente bene Mackenzie Hood nel binocolo che potrebbe addirittura capire dal labiale quello che si dicono. Comandante, che faccio? Sparo? Un attimo. Non sembra che abbiano degli intenti bellicosi. Ma magari è l'inizio di un attacco. Certo, Jim. E prima di attaccare cosa fanno? Illuminano a giorno la trincea. Ma che cos'hai nel cervello? Le pigne? A parlare è Bruce Bairnsfather, il luogotenente in seconda. A casa è un famoso vignettista e qui non riesce a non fare una battuta, anche se è fuori luogo. Ma a rincarare la dose ci pensa Turner, un altro commilitone, che è al fronte con un doppio incarico, fuciliere di Sua Maestà e fotografo del Daily Mirror. Jim, andiamo, dai. Si stanno scambiando gli auguri di Natale. E non si può mica sparare a uno che si fa gli auguri di Natale, andiamo. Tanner, gli ordini qua li do io, è chiaro? No, sì, signor Maggiore, stavo dicendo, ho detto silenzio, gli ordini li do io. Va bene, signor Maggiore, è chiaro. Jim, non abbassa il fucile però. E guarda alternativamente la trincea di fronte e il comandante Hood. Aspettando magari un ordine. Finché, a un certo punto, si ode un suono. Qualcuno che canta. È la voce di Otto, dall'altra parte. Una voce calda, da tenore. Incomincia da solo e poi tutti gli altri suoi commilitoni lo seguono in una specie di coro a bocca chiusa, sommesso. Jim conosce quella melodia. Però non capisce le parole. Il na, heilige na, andam ta, ansem va. Round young virgin Mary and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, Schnatter in himmlische. Sei strofe dura la canzone. Otto la canta tutta. E poi, senza soluzione di continuità, in perfetto inglese, incomincia a cantare Auld Lang Syne. Auld Lang Syne è un traditional che è famoso in tutto il mondo, con nomi diversi. In Italia si chiama il Valzer delle Candele. Ma il testo originale è del poeta nazionale scozzese Robert Burns. Parla di lontananza, di affetti, di ricordi. Jim e i suoi commilitoni normalmente lo cantano ogni 31 dicembre per salutare l'anno vecchio e andare incontro all'ignoto, accompagnandosi con una chitarra e una cornamusa. Should old acquaintance be forgot and never come to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for days of old lang syne. No, bastardo, ah no, questa non te la permetto, bastardo, questa la devi smettere. Jim si alza in piedi e un secondo prima che possa sparare viene buttato a terra dal maggiore Hood. Ho detto che gli ordini qua li do io, è chiaro? Ma signor maggiore, ma stava cantando la nostra canzone. Ah, signore mio, Tanner, prendi il posto di questa femminuccia. Tanner va al posto di guardia guardando con odio Jim che va in fondo alla trincea in mezzo al fango e ai topi. Otto la canta tutta, Auld Lang Syne. Volume perfetto, dizione esageratamente perfetta, il tono quello giusto, caldo. E alla fine applausi da parte dei suoi commilitoni, finché nel silenzio della notte un tedesco grida: "You! Now you!" Come noi. Che cazzo cantiamo noi? Gli scozzesi si guardano un po' smarriti. Potrebbero cantare mille canzoni come quelle che cantano da ubriachi nei pub delle Highlands, ma in quel momento ovviamente non gliene viene in mente neanche una. È il maggiore Hood a risolvere la situazione. Mette sull'attenti. Posa marziale. Mano sul cuore. E guardando con occhi feroci i suoi soldati, perché lo sostengano, canta l'inno nazionale. God save our precious king, long live our noble king, God save the king, un po' di applausi, ma soprattutto risate di scherno da parte dei tedeschi. E un tedesco grida: "Hey, Tipperary! Come on, Tipperary!" Ma porca miseria! Come hanno fatto a non pensarci prima? It's a long way to Tipperary! È la loro canzone! È in realtà una canzone da bordello, nata nel 1912 a Manchester. Ma la cantano tutti gli eserciti d'Europa, perché è una marcia perfetta per tenere il ritmo durante gli spostamenti. Per cui si guardano, ok? Ok, ready? Are you ready? Come on. 1, 2, 3. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary. To the sweetest girl I know. Grandi applausi da parte dei tedeschi. Enormi applausi. L'atmosfera marziale ormai si è completamente sciolta in questa specie di festival di Sanremo della notte belga. Finché, a un certo punto, in un inglese un po' maccheronico, un tedesco grida: "We not shoot, you not shoot." Noi non spariamo, voi non sparate. Come non spara? Ma c'è un nemico. Non si può non sparare al nemico. Ma infatti Turner non abbassa il fucile. "We not shoot, you not shoot." Ancora. Il maggiore Hood, che non ha smesso di guardare col binocolo, a un certo punto lo abbassa e con voce tremante dice a Turner: "Qualsiasi cosa tu veda, non sparare se non te lo dico io." Turner infatti inquadra nel merino del fucile una sagoma, un'ombra. Carponi pian pianino ha superato la trincea e sta arrivando verso di loro. "Sono quello che ha cantato prima. Mi chiamo Otto." Silenzio. Turner si morde il labbro, non sa che cosa fare. Otto prende coraggio, si alza in piedi e comincia a camminare con più decisione verso la trincea scozzese. È un fantasma. Un fantasma scuro illuminato in controluce dagli alberi di Natale dietro di lui. Il suo cappotto ondeggia al vento gelido della notte belga. Le sue gambe disegnano un arco sempre più preciso e sempre più deciso verso le trincee scozzesi. "Sto venendo verso di voi. La mia vita è nelle vostre mani. Sono solo, disarmato, qualcuno vuole venire a parlare con me." Silenzio, decine di fucili sono puntati contro di lui, ma lui non smette. "Ci sono decine di cadaveri, di soldati inglesi come voi vicino alla mia trincea e di soldati tedeschi come me vicino alla vostra. Voglio prendere accordi per seppellirli domani. Qualcuno viene a parlare con me." Il maggiore Hood non sa che fare. Turner è immobile. Perfino Burns Father ha la mascella aperta ormai da 5 minuti e tenerlo zitto non è facile. A un certo punto, nell'indecisione, nell'immobilità generale, un soldato scozzese supera il parapetto e va nella terra di nessuno. "Jim, che cazzo fai? Jim, vieni qua." Ma Jim non sente niente. Ha ripianto di prima, è subentrata una stranissima pace. Non so per quale motivo, ma devi rispondere a quelle domande. Anche se quando si trova nella terra di nessuno capisce l'azzardo, di fronte a quell'ombra che sta avvicinando e dietro i suoi commilitoni che gli gridano di tornare indietro. Jim, che cazzo fai? Ti farai ammazzare! Jim, è un ordine, torna indietro! Jim, per favore, torna qui, Jim! Silenzio, dai! Silenzio! Silenzio! C'è bisogno di silenzio nei momenti importanti. Bisogna guardare avanti, non indietro. Andare oltre, alle trincee, agli steccati, ai muri. Quello lì non è il nemico. Ma il nemico non sa cantare. nemico non conosce la grammatica, non parla così bene l'inglese. Non ha un cappotto così bello il nemico, dai. Non è il nemico. E allora gli si può andare incontro, e ci si può parlare. 8 e Jim sono uno di fronte all'altro ora. 8. Jim. Domani alle 9. Va bene. Con banchi e picconi. Niente armi, ok? Perfetto. Grazie mille. A domani. Un attimo. Sì? Ecco, per la precisione, noi non siamo inglesi, ma siamo scozzesi. L'alba del 25 dicembre vede Jim ancora sveglio. Non è riuscito a dormire. E come lui, i suoi commilitoni, quelli che hanno visto quella scena surreale. Il maggiore Hood va avanti e indietro, nervosamente. Va bene, non spariamo. Ma al primo gesto inconsulto, al primo situazione strana, fuoco a volontà, è chiaro? Non accadrà, signor maggiore. E tu che cazzo ne sai, Jim? Me l'ha promesso. Bah, la promessa di un barbaro non è valida. La promessa di un uomo, sì, però. Ma quelli non sono uomini, sono bestie. Ah, sì? È strano, perché visto da vicino sembrava proprio come me. Allora, 8, cosa faranno gli inglesi? Ecco, guardi, comandante, per la precisione, non sono inglesi, sono scozzesi. Sì, vabbè, inglesi, scozzesi, non mi interessa. Cosa faranno? Rispetteranno i patti? Vabbè, io credo di sì. Ma che ingenuo sei! Quelli non rispettano nessun patto! E sai perché? Perché sono bestie, non uomini! Ah, sì? È strano, perché vista da vicino sembrava proprio uguale a me. Kurt Zemisch, sottotenente del 134esimo reggimento sassone. Nel suo diario giornaliero scrive: nessuno sparo, nessun movimento, nessun colpo di artiglieria. Richard Schirman, sentinella del 107esimo reggimento bavarese, non si fida e continua a puntare il fucile verso le trincee nemiche, che non si vedono perché c'è una nebbiolina che si è alzata nell'alba gelida. Otto al suo fianco è lì che si sta rigirando tra le mani la pipa del principe Enrico. E poi a un certo punto prende una vanga, lo guarda e gli dice: si va? Ma chi? Noi. E chi se no? Schirman si volta verso il sottotenente, che fa finta di non guardare, come per dire: fate quello che volete, io non c'entro niente, fate quello che volete, non mettetemi in mezzo, io non c'entro nulla, non ne voglio sapere niente. I commilitoni di Otto si avvicinano, non dicono una parola, basta uno sguardo ed escono. Eccoli, sono loro! Non hanno armi, hanno solo le vanghe! Dall'altra parte Jim vede decine di soldati tedeschi che sono usciti dalla trincea e si stanno avvicinando. Camminano incerti nella nebbia come zombie tremolanti. Jim prende una vanga, esce e, facendo ai suoi compagni di uscire, Turner, Bernsfather e tutti gli altri, non del tutto convinti, però lo seguono. Il maggiore Hood rimane giù. Ah! Ci ammazzeranno tutti! Poi, quando si rende conto di essere rimasto l'unico in trincea, allora esce anche lui, sopravanza i suoi soldati e dice: va bene, c'è un ufficiale che possa venire a parlare con me, sono un ufficiale scozzese, c'è qualcuno che vuole venire a parlare? Zemisch ha fatto lo stesso, è uscito per ultimo, ha sopravanzato i suoi e si mette di fronte a Hood. I due ufficiali hanno preso in mano la situazione, i soldati stanno indietro, pochi passi. un misto di anglo-tedesco, una stretta di mano, Hood torna dai suoi e dice: ok ragazzi, per oggi non si spara. Ah, sospiro di sollievo. Abbiamo deciso che seppelliamo i morti. Ognuno parte dalla propria trincea e arriva fino a metà della terra di nessuno. Signor Maggiore, ma così io seppellisco i tedeschi, non gli scozzesi. E Ben Spader, cosa pensavi, che ti facessero andare là davanti alle loro trincee a seppellire i tuoi amichetti? Sono bestie, ma non sono cretini. E comunque noi non l'avremmo mai permesso di fare lo stesso, per cui tranquillo, si fa così. Nel mezzo della terra di nessuno c'è il maggior numero di cadaveri. E quelli lì, e chi li seppellisce? Non so, Ben Spader, secondo me, chi ci arriva prima? No, non vale mica. Chi si fa il mazzo, allora lavora il doppio. Chi invece fa lo scansafatiche, lavora la metà. Non va mica bene così. Hai qualche altra idea? Una ce l'avrei. Aspettate un attimo. Due salti, prende i tedeschi che se ne stanno andando, questi si voltano, dice due parole, si guardano in faccia, grandi risate, una stretta di mano, Ben Spader torna: ok ragazzi, partita di pallone. Quelli in più sulla linea mediana li seppellisce chi perde. Arriviamo ai tre. Tu sei scemo. Forse, però ci divertiamo, no? Ti fanno due squadre di 11 calciatori, ti danno i ruoli, si sceglie la parte della terra di nessuno meno ciancicata dalle buche delle granate, si usano per fare i pali delle porte, i maglioni o le borse. Gli scozzesi hanno un pallone di cuoio in dotazione, d'altronde il calcio l'hanno inventato i britannici, per cui si deve scegliere l'arbitro a un certo punto. Gli scozzesi propongono il loro cappellano, i tedeschi protestano e dicono: no, tranquilli, è inglese, nel dubbio fischierà per voi, non vi preoccupate. E si comincia. Jim va in mezzo alla gente a cercare Otto, il tedesco della sera prima. Oh, eccoti qui. Ciao Otto. Ciao Jim. I due se ne stanno in piedi, uno di fronte all'altro, con due sorrisi un po' ebeti perché non sanno bene che cosa dirsi. Finché Otto ha un'illuminazione, mette le mani in tasca, tira fuori la pipa del principe Enrico e la offre a Jim, il quale la mette in tasca in maniera un po' esitante e in cambio gli dà la Princess Mary gift box, tutta intera. Otto la apre, vede la foto della principessa. Wow, che bella! Ma chi è, la tua fidanzata? No, è la principessa Mary, la figlia del re. Ah, vabbè, quindi è un po' la fidanzata di tutti, no? Beh, sì, più o meno. Grazie Jim, e buon Natale. È il segnale. I soldati incominciano a scambiarsi doni. I tedeschi mostrano di apprezzare molto la carne in scatola. In cambio danno perfino le sigarette. Gli scozzesi vanno pazzi per il salame. Sono disposti a dare in cambio il pudding, il loro dolce di Natale. La terra di nessuno è tutto un brulicare di ragazzi che parlano, che fumano, che si confrontano. Richard Sherman, che è uscito anche lui alla fine, si guarda questi giovani di tante realtà diverse, di tante nazioni diverse, che ridono fra di loro e che non smettono di essere se stessi prendendosi in giro l'un l'altro, e si gratta la testa pensieroso. Forse gli sta venendo in mente qualche idea. C'è perfino un soldato scozzese con un paio di forbici che sta tagliando i capelli a un soldato tedesco seduto docile davanti a lui, con dietro la fila di tedeschi in attesa del loro turno. Ben Spader vede la scena, ma poi vede che a fianco c'è un ufficiale tedesco bello panzuto, con un bel lungo cappotto, con dei bottoni enormi dorati. E allora fa un salto, frega la forbice al commilitone, arriva davanti all'ufficiale, gli taglia il bottone e se lo mette in tasca. Sa, sono un collezionista. E anziché fare qualcosa, l'ufficiale si mette a ridere. Turner tira fuori la macchina fotografica e dice: ok ragazzi, foto di gruppo, dai, forza, forza, dai, una bella linea, tutti mischiati, dai, ma chi se ne frega, dai, forza, forza, dai, ok? Pronti? Ok, cheese, click. Visto dall'alto, la terra di nessuno è tutto un brulicare di ragazzi. C'è chi parla, c'è chi fuma, c'è chi gioca a pallone, c'è chi si incazza. C'è chi già ha incominciato a scavare, C'è chi fa finta di nulla e cerca di imboscarsi. Sembra una spiaggia estiva al tramonto, un attimo prima che parta l'unz unz dalle casse e la gente incomincia a ballare. La sera di Natale tutti i partecipanti a quel momento magico si affrettano a scrivere delle lettere ai parenti per raccontare quello che hanno visto. E Turner ha impressionato un po' di lastre e le mette con cura dentro una busta per poi inviare al giornale. La censura tedesca blocca tutte le lettere dei soldati, ma non quelle di Zemisch, perché è un ufficiale, quindi la sua passa. La censura inglese invece ha più le maglie larghe, per cui la maggior parte delle lettere dei soldati semplici anche arrivano così come sono a casa dei allibiti genitori che non sanno come prendere queste parole di pace. Alcuni pensano che lo stress a cui sono stati sottoposti i loro ragazzi li faccia farneticare. Altri pensano ad allucinazioni, a follia. Ma alcuni, anche se sono pochi, pensano che siano vere quelle parole e che possano portare a una nuova coscienza. E allora portano le lettere ai giornali. Ai redattori del Daily Mirror, appena sviluppano le foto di Turner, viene quasi un colpo. Si aspettavano di trovare delle normali foto di vita di trincea o, se erano fortunati, assalti alla baionetta. E invece vedono un soldato scozzese che fuma una sigaretta inglese con un soldato tedesco con l'elmo uncinato. Tranquilli. Oppure addirittura un gruppo di 25 persone una a fianco all'altro come in una foto di nozze, sorridenti e spensierati. Peccato che sono scozzesi e tedeschi e dovrebbero scannarsi. Il direttore del Daily Mirror fiuta lo scoop e mette la foto in copertina, in prima pagina, con un titolo bomba. Un gruppo storico, soldati britannici e tedeschi fotografati insieme. Ma la foto esce l'8 gennaio del 1915. È troppo tardi. Gli alti comandi hanno saputo quello che è successo e cercano di minimizzarlo, di circoscriverlo. Cosa volete? È successo solo lì, in quel piccolo punto, fra soldati evidentemente squilibrati, mal guidati da ufficiali disfattisti. In qualche caso gli alti comandi arrivano addirittura a scrivere delle lettere e inviare a casa delle lettere che dicono esattamente il contrario. Ma non è vero niente, non è vero, perché quella cosa è successa. E non solo lì, ma in tantissimi altri punti del fronte che va dal mare del nord fino quasi al confine con la Svizzera. Ma a chi credere? Quando i nostri figli sono al fronte a rischiare la vita per i nostri ideali. A chi tutto sommato dice delle cose abbastanza sensate o a chi scrive delle cose folli? Ma le foto! Caspita, ci sono le foto, no? Fotomontaggi. I disfattisti sono abilissimi a fare queste cose. Oppure, se non sono fotomontaggi, sono soldati scozzesi che si mettono e che indossano uniformi di soldati tedeschi che hanno appena ucciso e si fanno fotografare per prenderli in giro. Dai, andiamo! E non crederete mica ad una tregua, no? E dai! Gli alti comandi si affrettano poi a sostituire i soldati che sono in prima linea con altri ben addestrati e che di pace non vogliono neanche sentir parlare, facendo molta attenzione che durante il passaggio i due non si incontrino. E quindi gli Zemisch, i Hood, Jim, Otto, Bernspadio e tutti gli altri vanno nelle retrovie, guardati a vista da ufficiali diversi e molto cattivi. E poi il 27 dicembre ricomincia a piovere. E nelle trincee bisogna pensare alla sopravvivenza. Ai pidocchi, ai topi, al freddo, la pioggia, le pozzanghere, il fango e così via. Non ci sarà un'altra tregua, mai più. La guerra durerà ancora 3 anni e milioni di ragazzi di tutta Europa perderanno la vita senza avere mai assaporato la gioia momentanea di una piccola pace. Ma qualcosa rimarrà di questo momento magico. Richard Sherman prenderà spunto da quel fraternizzare fra stranieri per ampliare in tutta Europa una sua idea, che l'aveva portato nel 1912 ad aprire il primo ostello della gioventù nel castello di Altena, in Vestfalia, e fonderà nel 1932 la International Youth Hostel Federation, che è attiva ancora oggi in 80 paesi con 4.000 strutture. Mackenzie Wood diventerà un parlamentare liberale nel 1930, farà un celebre discorso al Parlamento britannico ricordando la tregua di Natale e contribuendo così a legittimare il nascente movimento degli obiettori di coscienza. Bruce Bairnsfather, congedato dopo una brutta ferita qualche settimana dopo la tregua, diventerà un celeberrimo cartoonist, inventando uno dei personaggi più famosi della storia inglese dei fumetti, Old Bill, che disegnerà anche in azione durante la tregua, dandogli le sembianze del parrucchiere che taglia i capelli al tedesco. Chi avrà meno fortuna sarà Turner, che purtroppo morirà in qualche assalto nei dintorni del 1917. Il suo corpo fa parte delle migliaia sepolte in fosse comuni sotto croci senza nome. Non avrà molta fortuna neanche Kurt Zemisch, che dopo la guerra proverà in tutti i modi a convincere con scarsa fortuna i suoi connazionali che quella che racconta è la pura verità. I suoi racconti, già poco sopportati, diventeranno del tutto inutili quando nel 1933 salirà al potere un ex caporale austriaco, anch'egli presente in trincea, che non ha mai voluto partecipare a nessun momento di fraternizzazione, un certo Adolf Hitler. Jim, Otto e tutti i ragazzi che hanno fatto amicizia nella terra di nessuno forse sopravviveranno al conflitto, forse no. Ma la loro vita, lunga o breve che sia, verrà sconvolta per sempre dalla consapevolezza lì guadagnata che sono sì i governi a decidere la guerra, ma sono gli uomini a scegliere la pace. Sporadicamente la memoria della tregua tornerà alla ribalta, con il passare degli anni in maniera sempre più decisa, fino a farla uscire dall'alone di leggenda e consegnarla ai libri di storia. In occasione del centenario, nel 2014, si faranno grandi manifestazioni celebrative nei luoghi teatro di questa magia. Una di queste vedrà Michel Platini, allora presidente dell'UEFA, inaugurare un piccolo monumento a Plückstedt in memoria di quella partita di calcio che deve decidere chi deve scavare nel mezzo della terra di nessuno. Una partita di calcio che è in pratica la prima amichevole mai giocata fra una squadra del Regno Unito e la Germania. E che, per la cronaca, dopo frasi concitate, una rimonta pazzesca degli scozzesi da 2-0 a 2-2, è finita 3-2 per i tedeschi. Ma il terzo gol è stato segnato in fuorigioco. E d'altronde, l'arbitro in inglese. Quantums be forgot. Ah, no, è diverso che cosa? Never go to mind. Should all the quantums be forgot, and they all then sign for all and time, my dear. For old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for day of old lang syne. Merry Christmas.